Voglio un disco d'oro, voglio un disco d'oro. L'hanno preso tutti, pure chi non canta. Voglio un disco d'oro, voglio un disco d'oro. L'hanno preso tutti, tranne la mia banda. Ne ha presi più di zero Renato. Voglio un disco d'oro, pure se sono stonato. Sognavo di fare autografi, ma le uniche firme che mi chiedono in questa vita qui sono quelle dei volontari di Greenpeace. Fuori dalla metro B, Agri, che faccio? Firma con la X. Firmo con una X. Firma con una X. Voglio un disco d'oro, voglio un disco d'oro. Non so fare un cazzo, non c'ho manco un lavoro. Voglio un disco d'oro, voglio un disco d'oro. Non ho frequentato in parrocchia il coro. Qualcuno ha provato a metterlo nel lettore CD. Si è bruciato l'hard disk, è scoppiato il PC. E sto vinile luccicante è atterrato qui. Ma qui non c'è il mio nome, qui c'è scritto Mario. Mario Rossi, Mario, ma chi cazzo sei? Canzoni sull'amore, canzoni da rimorchio. È questo il gioco sporco a cui dovemo stare. Voglio un disco d'oro, voglio un disco d'oro. Per andare in giro con la limousine, per comprargli slip di Dolce Gabbana, di Dolce Gabbana. Voglio un disco d'oro. Non sono alla moda, non vengo bene in foto, ma voglio un disco d'oro. So 7 anni che suonamo, e vabbè che ci impegniamo, e vabbè che siamo bravi, però per carità ce lo dovreste dare. Ladies and gentlemen, the winner is... Fermata 93. Grazie per sto disco, per sto disco d'oro. Lo volevo tanto, tanto che lo adoro. Ma adesso che l'ho preso non è cambiato niente. E poi so tempi grigi, non c'è liquidità. E tornando a casa, che devi fa? Lo porto al compro oro, lo porto al compro oro, che devo fa la spesa. E che devi comprare? Adesso ho capito che mi basta un dado per sentirmi una star. Sì! Ma signori, come avrete capito dal pezzo, è una vita da gavetta. Qui non si vende un disco, ma almeno ce la potresti offrire una sigaretta. Che ne pensi, Filippo? Non sarebbe buona una sigaretta proprio adesso? Ma io manco fumo. Non c'hai un po' di desiderio? No. Perché non sia elettronica? Una sigaretta sarebbe perfetta, una sigaretta per una vita da gavetta. Una sigaretta sarebbe perfetta, una sigaretta per una vita da gavetta.